Abbiamo detto ieri, ricordate, la grande legge della gravitazione universale, dell'attrazione universale, sono due leggi fenomenali di cui ho bisogno per muovere un dito, ho bisogno per muovere la lingua. Tutto l'universo è a servizio di questo mio dito, di questo mio occhio, del mio peso, della mia altezza, delle mie dimensioni, tutto l'universo. Abbiamo bisogno del sole, e chi è che non lo sa? E della luna anche. E quanti fenomeni che sentiamo noi sono collegati con le fasi della luna? Ma questo l'hanno capito anche i nostri vecchi, che non avevano quegli strumenti sofisticati che abbiamo oggi. Abbiamo bisogno dell'aria, dell'acqua, tutto l'universo. Quando siamo saliti con un gruppo il 20 del mese scorso sul Gran Sasso, là c'era un esperto di quella zona, di quella vetta, che ci ha mostrato il ghiacciaio. E abbiamo detto, ma nell'88, quando siamo andati, era più grande. Oh, dice, è da qualche anno che non nevica più e il ghiacciaio sta per finire. E tutte queste sorgenti che sono intorno al Gran Sasso sono calate. Alcune sono veramente chiuse ormai, non c'è più una goccia d'acqua perché il ghiacciaio sta per finire. Oh, che notizia triste, per così dire, perché se ci manca l'acqua, difatti c'erano migliaia di pecore di solito. Quest'anno ci diceva un pastore, siamo arrivati a 800 capi, perché se non c'è l'acqua, cosa possiamo fare? L'acqua. E pensiamo che giù, nel meridione, è già razionata l'acqua, quella potabile va diventando sempre più poca. Pensate, bisogna perdere la salute per apprezzarla. Bisogna che si secchino le fonti per capire che servizio sta facendoci l'acqua. Siamo abituati a tanta acqua e non si apprezzano questi doni di Dio perché siamo abituati, ci siamo dentro. Il pesciolino che il vento, che le onde hanno buttato sul bagnasciuga, si accorge allora cosa vuol dire l'acqua dentro la quale era nato e vissuto. Bisogna perdere la salute, si dice, per apprezzarla. Bisogna mancare d'acqua per sentire quanto era preziosa quell'acqua che noi si sprecava con disinvoltura. Bisogna che i nostri polmoni facciano fatica a respirare per capire quanto è prezioso il respiro, l'aria, l'ossigeno. Apriamo gli occhi. Il Signore Dio a volte ci fa mancare qualche cosa, non perché voglia che soffriamo, ma perché ci accorgiamo che tutto è provvidenza. Ma c'è della gente che non ringrazia mai Dio quando sta bene. Bisogna perdere la salute per capire di quale pregio era la salute. Bisogna che si asciughino le fonti per capire che cos'era l'acqua. Questo alimento indispensabile per la vita degli uccelli, degli uomini, dei prati, degli alberi. Comunque questa è casa abitata da Dio, l'universo e ciascuno di noi. Questa è la prima casa che noi possiamo in parte conoscere, in parte dico, ma il corpo umano è un mistero. Per quanto lo si studi, da quanti secoli ci sono gli studi anatomici. L'anatomia è nata con l'uomo, per così dire, perché l'uomo ha dovuto subito capirsi, capire che cosa voleva dire la digestione e che cosa si poteva digerire e che cosa non si poteva inghiottire perché non si poteva digerire. L'uomo ha dovuto subito studiarsi, studiare come comportarsi quando c'era il vento freddo e quando c'era invece l'afa. Come regolarsi quando la pelle bruciava e quando invece c'erano altri disturbi? Come regolarsi? Vestirsi, non vestirsi, coprirsi, non coprirsi, mangiare quel cibo, non mangiarlo, quello è buono, quello è veleno. E credete voi di conoscere tutto quello che riguarda la vostra persona, anche soltanto la parte somatica, il corpo? Ah no. Ho un mal di testa, non capisco da che parte venga. Chiedi al medico A, chiedi al medico B. Finalmente, dopo la centesima analisi, diranno che cos'hai. E forse sbagliando, perché si pigliano tanti di quei granchi, li pigliano anche i medici, gli specialisti. Noi per primi prendiamo dei granchi e crediamo di saperla lunga. Io conosco le mie abitudini, io conosco la mia pelle, e così dire. Mi conosco in parte. In parte ci conosciamo. In questo momento stiamo assimilando quello che abbiamo preso a colazione, no? E sai a che punto sono arrivati quei cibi, quella marmellata, quella fetta di salame, quel caffè latte, quel bicchiere di bianco? Siamo sempre ignoranti, scusate la parola, di questa casa che abitiamo. La conosciamo presso a poco, la nostra casa corporale, frate corpo, la nostra carne e lo spirito, l'anima. Sappiamo qualche cosa di noi. Andiamo a ripescare i voti che abbiamo preso a scuola, quando ci davano delle valutazioni gli insegnanti. Non valgono più quelle, si intende, però non possiamo dire di conoscere tutto di noi stessi. Gnoscete ipsum, grande insegnamento della filosofia, anche pre-cristiana, pagana. Uomo, conosci te stesso. È facile, io mi chiamo con questo nome e cognome, ti basta questo? È troppo poco. Conosci un po' il tuo sistema nervoso? Conosci un po'... Oh, sappiamo ben poco e niente, anche chissà. Molto sa chi sa che poco sa. Sapremmo già molto se fossimo convinti di non conoscerci, se non grosso modo.